Salve a tutti e benvenuti sul Piacere di Scrivere. Questo è il primo podcast del nuovo Piacere di Scrivere e ne siamo abbastanza orgogliosi. Qui è Annarita Faggioni, founder del progetto e la voce che vi accompagnerà nei vari podcast. Si parte subito con un tema caldo, caldissimo, che è quello della riforma del diritto di copyright, che è stato approvato dall'Unione Europea lo scorso 12 settembre. Prima un piccolo excursus sulle leggi europee che sono entrate in contatto col mondo del web e anche una definizione semplice di copyright. Allora, per quanto riguarda il mondo del web, tre sono le normative che hanno rivoluzionato il modo in cui l'Europa si approccia a questo mondo. Prima di tutto, la normativa sui cookie, dove praticamente ogni sito è tenuto a chiedere l'autorizzazione all'utente per l'utilizzo dei cookie. Da qui il banner che trovate in ogni pagina dei siti e che è stato modificato recentemente con la normativa GDPR di quest'anno. La seconda normativa è proprio la GDPR, dove si chiede il consenso al trattamento dei dati personali anche quando l'utente commenta o quando si iscrive alla newsletter o quando manda un messaggio tramite forme di contatto. La terza normativa, che è quella che è stata votata lo scorso 12 settembre al Consiglio europeo nelle sue linee generali, è la riforma del diritto di copyright. E quindi veniamo al dunque, cos'è il copyright? Il copyright è la proprietà intellettuale che una persona ha su un'immagine, su un testo, su una musica prodotta, quindi qualsiasi lavoro che è creativo, che è artistico, viene tutelato in maniera tale che la persona che l'ha fatta possa essere pagata. Bene, attualmente nel mondo del web c'è la possibilità di dare consenso sull'utilizzo di un'immagine, un testo, eccetera, attraverso licenza. Quindi in base alla licenza che si sceglie si può anche solo utilizzare quell'immagine, oppure modificarla, oppure acquistarla, quindi pagando in realtà un diritto d'autore. E ci sono anche siti fair use, si chiamano, dove semplicemente segnalando chi ha creato quell'immagine si può utilizzare tranquillamente. La licenza CCO o CC0. Che permette anche di non inserire l'autore del testo, anche se vedremo che con la riforma questo potrebbe cambiare. Allora, quali sono le caratteristiche che fanno la differenza tra la vecchia e la nuova normativa? La nuova normativa che è stata approvata il 12 settembre nelle linee generali, quindi per vederne l'attuazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione, dovremo aspettare maggio 2019 quando ci saranno i decreti attuativi. Quindi per il momento si parla di qualcosa che deve ancora essere recepito dai singoli paesi. La normativa ha due punti controversi, che sono quelli che stanno alimentando la discussione e la polemica. Cioè, mentre l'intento è positivo, ovvero quello di tutelare il copyright, ovvero di pagare le persone per quello che hanno realizzato a livello creativo, per quanto riguarda invece un paio di punti ci sono delle opinioni diverse, cioè c'è chi lo vede positivo, c'è chi lo vede negativo. Come Piacere di Scrivere abbiamo deciso di dare una semplice informazione e non soffermarci in discussioni politiche che non ci appartengono. Allora, i due punti controversi sono l'articolo 11 e l'articolo 13 di questa nuova normativa sul copyright. L'articolo 11 cosa dice? Praticamente, quando un motore di ricerca utilizza i contenuti di un editore, per esempio un giornale, per esempio la meta description dell'articolo di un giornale, oppure un social network, per esempio Facebook, va a condividere o comunque ad utilizzare il contenuto di un editore, deve pagare una tassa che è stata chiamata la link tax a quell'editore. Quindi se per esempio un giornale inserisce un articolo e Google lo vuole mettere su Google News, non solo deve chiedere l'autorizzazione a quell'editore, ma deve pagare anche questa tassa. Invece sui social si prevede che questa tassa venga pagata in base alle condivisioni. Quindi se su Facebook 100 persone, faccio un esempio, condividono quell'articolo, cosa succede? Succede che Facebook è tenuto a pagare una certa somma a quell'editore per 100 volte, tante sono le condivisioni. L'articolo 13 invece parte dalla tutela del diritto d'autore in senso stretto, con un sistema che è molto simile al Content ID di YouTube. Come funziona su YouTube? YouTube è un archivio video, sostanzialmente, che può essere utilizzato da chiunque. Quando una persona carica un video e YouTube riconosce quel contenuto come già pubblicato da qualcun altro, blocca quel contenuto e quindi il duplicato non si vede più, come tutela del diritto d'autore della prima persona che ha pubblicato. Bene, l'articolo 13 quindi consentirebbe ai grandi archivi, quindi non solo YouTube, ma anche lo stesso Google o qualunque tipo di grande archivio, di fare un confronto incrociato sui file utilizzati. Quindi, per esempio, se Getty Images scopre che una sua immagine è stata piratata, Getty può bloccarla inizialmente, anche se questo lo può fare anche adesso, ma soprattutto, questa è la novità della normativa, dare una multa a chi si è permesso di usare quell'immagine senza autorizzazione. In più, in via preventiva, chi ha un sito dovrebbe avere un filtro, quindi si pensa a un plugin, insomma, anche se ancora non è stato detto nulla in tal senso a livello operativo, dovrebbe avere un filtro che permette di sapere cosa usare senza rischi, senza rischio di multa e cosa non usare. Naturalmente questo ha creato delle perplessità in chi lavora nel mondo di internet e non solo, perché ci sono stati dei precedenti. Allora, i precedenti a livello europeo sono due, quello spagnolo del 2014 e quello tedesco ancora in corso. In Spagna una legge simile sulla link tax, quindi parliamo dell'articolo 11 della nuova riforma del diritto di copyright, prevedeva, questa legge spagnola molto simile, costringere Google a pagare ogni volta che mostrava in Google News Spagna un contenuto che era di un giornale spagnolo o di un blog spagnolo su Google News. Alla fine Google non ce l'ha fatta più e ha deciso di chiudere il servizio sostanzialmente, quindi in Spagna non esiste più Google News. In Germania invece c'è una causa legale in giro da parecchi anni che si è conclusa nel 2017, o meglio che si è arenata nel 2017, perché praticamente gli editori tedeschi hanno fatto causa a Google dicendo che utilizzava impropriamente i propri contenuti senza pagarli. Alla fine il giudice ha detto che serviva una normativa europea in quanto comunque per quanto riguarda la corte si trattava di un processo win-win, ovvero Google usava le due righe dell'editore sostanzialmente e poteva farlo gratuitamente perché prometteva all'editore visite, perché comunque chi utilizza Google News vede le due righe di meta description e decide se cliccare su quell'articolo o meno. Quindi questa novità preoccupa un po' chi è su internet, invece per gli autori esordienti potrebbe essere molto interessante vedere in futuro cosa dice questa riforma dal punto di vista delle condivisioni. Quindi parliamo sempre dell'articolo 11 sulla link tax. Però potrebbe essere anche interessante vedere come si potranno utilizzare i contenuti, non solo le immagini, a tutela del diritto d'autore, visto che ci sono questi confronti tra le immagini e non solo. Quindi al momento non sapremo nulla, fino a maggio 2019 ci sarà da aspettare i decreti attuativi, però naturalmente la situazione ha scatenato abbastanza polemiche. Diteci cosa ne pensate commentando sul sito, siamo assolutamente in regola col GDPR, quindi potete commentare tranquillamente sui nostri canali social, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, ovunque. Se questo podcast vi è piaciuto, se c'è qualcosa da migliorare, se l'articolo è di vostro interesse, noi continueremo a fare questi podcast giornalmente, naturalmente in base a quello che scriviamo. Potete trovare i nostri podcast su Internet Archive e su Spreaker. Naturalmente vi lasciamo il collegamento a ogni nuovo podcast. Vi aspettiamo e vi auguriamo una splendida giornata, sperando che finalmente la normativa diventi anche più chiara con i decreti attuativi. Alla prossima!